Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Francesco Boccia, 45 anni, pugliese, sposato con una figlia, Gea. Sua moglie è il ministro dell'agricoltura Nunzia Di Girolamo, schierata con Alfano. Sono la coppia simbolo del governo delle larghe intese. Lui, professore universitario, un MBA alla Bocconi, un'esperienza di ricerca per 4 anni alla London School. Eletto alla Camera nel 2008, rieletto nel 2013, amico e dicono braccio destro del presidente Letta, conosciuto alla scuola di Beniamino Andreatta. Oggi è il presidente della Commissione Bilancio e Tesoro della Programmazione della Camera, dato come un pontiere tra Letta e Renzi, un compito diventato difficile. Onorevole Boccia, Renzi dice: se sarò segretario, il governo farà come dico io. Ecco, questa legge di stabilità è già come dice Renzi? No, qual è l'ambizione di tutti i segretari del Partito Democratico? Questa legge di stabilità può essere quella che vogliono Renzi e Letta. Senta, Renzi ha anche detto: la linea del governo sarà quella del partito. Quindi, fine delle larghe intese. Beh, il Partito Democratico lo guida questo governo e ha il numero più alto di deputati, quindi è giusto che conti di più. Di più, ma insomma lui dice sarà quella del partito, è diverso, è la linea del partito. Dunque, il segretario deve dire così. Va bene, ci penserà il presidente a mediare. Comunque, larghe intese o no, per Renzi il governo non ha fatto quasi nulla, neanche la legge elettorale. Guerra però sembra. Ci sono debiti della pubblica amministrazione pagati e ci sono messaggi chiari sul lavoro. Pochi. 20 miliardi sono stati pagati nel 2013, altri 27 saranno pagati nei primi 6 mesi del 2014. Bisogna fare molto di più, questo è indubbio, e Renzi farà il segretario anche per questo. Senta, questa legge di stabilità però per ora delude tutti. Confindustria, sindacati, commercianti, le loro opinioni non contano? Contano. Leggendo i giornali di oggi si vede che è cambiato qualcosa nel primo tempo al Senato. Ecco, però il Sole 24 Ore domenica diceva: presidente Letta, ascolti il paese. Tra domenica e lunedì l'ha ascoltato? Penso di sì. Penso abbia anche letto e ascoltato il Sole 24 Ore. Se è vero come è vero che l'impegno assunto da Letta oggi di riversare tutte le risorse della spending review al cuneo fiscale è un impegno ufficiale. Quindi soldi alle imprese e soldi nelle tasche dei lavoratori. Vincolo chiaro: tutti i risparmi a spending review e la lotta all'evasione andranno, con un impegno nella legge di stabilità, andranno tutti al cuneo fiscale. Senta, cose concrete, ha cominciato a dirle: per fare sviluppo, ridurre il deficit, bisogna comunque tagliarla questa spesa pubblica. Cottarelli, che è l'uomo di Letta per i tagli, lei tra poco, quando va via di qui, lo incontra. Mi dice cosa gli chiederà in concreto, subito, di fare in modo tassativo? Centri di acquisti unici. Non è ammissibile che nella sanità ci siano ancora 27 miliardi di acquisti fatti da ospedali e ASL in giro per l'Italia. Ma lo sa che se ne parla da anni e anni, tutti dicono questa cosa e non si fa niente. È arrivato il momento di farlo. E lui lo farà entro quanto? Ma entro mesi, non abbiamo tempo. Quest'anno bisogna già vedere i primi risultati. Ci sono data center che vanno chiusi. Quest'anno, oggi siamo al 26 novembre, tra un mese vediamo i risultati? Intendo nell'anno 2014, quei risultati devono darci i soldi per abbassare ulteriormente il cuneo fiscale. Senta, in Italia ci sono 36.000 centri di spesa autonomo dello Stato. Cominciamo dalle ASL e la seconda? Ma tutti i comuni. Mi dice perché ogni comune deve avere un sito, mi dice perché, o meglio, un data center, mi dice perché lei, per chiedere un servizio alla pubblica amministrazione, che sia la patente o una carta d'identità, deve rivolgersi a enti diversi. Basterebbe un sito unico della pubblica amministrazione. Senta, vabbè, il sito comunque sono soldini, non sono soldoni. No, no, sono persone che ci stanno dietro quei servizi. Senta, una volta recuperati comunque i soldi da spending review della lotta all'evasione, lei dice andranno al cuneo fiscale, tutti lì. È la priorità delle priorità. Il costo del lavoro in Italia costa tanto, i salari netti sono bassi. Senta, il governo lo dice e dice che userà i soldi col coraggio per diminuire per abbattere il cuneo fiscale. Ma di quanto parliamo? Ma siamo partiti con 3 miliardi. Io penso che si possa arrivare a 7-8 miliardi strutturali e all'anno, che significa... Ma 10 non era la soglia minima? 10? Ma 10, se si pensa che si fa una volta sola, e basta. Io penso che si debba fare tutti gli anni e continuamente. Senta, gli investimenti non arrivano, anche perché l'energia costa troppo. Si può ridurre la bolletta energetica? Si deve ridurre, io lo trovo inaccettabile. Si deve, ma come si fa a ridurla? Il governo che fa per farla ridurre? Ma innanzitutto non capisco perché in bolletta io, lei e i nostri ascoltatori dobbiamo pagare investimenti che fa per esempio Ferrovie dello Stato, tante altre aziende pubbliche che non c'entra nulla con l'energia. Non capisco perché se c'è una raffineria il costo debba pagarlo in bolletta. Vabbè, e quindi che si fa in concreto? E si tolgono quei costi, li pagano le aziende che se hanno margini diminuiranno i dividendi o troveranno il modo di avere i dividendi in maniera diversa. Senta, gli investimenti non arrivano anche perché non c'è certezza del diritto. Esiste un problema di giustizia in Italia, sì o no? Certo, negarlo è ipocrita. Ecco, allora perché è sempre stato un tabù per la sinistra il problema di giustizia? Solo per colpa di Berlusconi? Perché è stato comodo per molti anni dire che Berlusconi era il male assoluto e noi eravamo... O meglio, dovrei dire loro erano i moralisti senza macchia, senza paura. E lo è anche per il governo Letta un tabù? No. Però non ho sentito proposte per... Non poteva essere però il governo Letta preso in ostaggio per questioni connesse alla giustizia. È nato per risolvere alcune emergenze del paese. Non quella. Non è nato per quella. Ah, vabbè, e quindi non si risolverà quando Berlusconi sarà sparito, diciamo. No, io è la precondizione. Penso che non si debba condizionare la vita del governo alla vicenda di ognuno di noi che ha... Insomma, il problema della giustizia c'è e quando sarà affrontato? Quando? Io mi auguro immediatamente. Senta, ma aspettare per esempio la delibera della Corte sull'interpretazione della legge Severino non sarebbe stato più utile, come chiede anche Casini? In un paese normale sì. Adesso si parla di carte americane che dovrebbero cambiare il contesto della sentenza sui diritti media. Se fosse così, si aspetta una revisione del processo, lei? Se fosse così, mi aspetto una revisione del processo come per qualsiasi altro cittadino. Senta, onorevole Bocce, ma pensa che la decadenza di Berlusconi porterà il governo a essere più forte o più debole? Questo non glielo so dire, so solo che il governo non sarà più condizionato da una parte politica su questioni che nulla hanno a che vedere con lo sviluppo del paese. Senta, comunque Berlusconi e Renzi mi sembra che vogliano la stessa cosa, le elezioni. Mi auguro che lei abbia torto. Però è possibile che abbia ragione. Se dovesse aver ragione sarebbe un bel problema per il paese e per il PD. Senta, ma lei ha visto i sondaggi? Berlusconi e Alfano, se marciano divisi, colpiscono uniti, sembrano più forti. Ci crede? Nel breve è così. Era anche ai tempi di DS e Margherita. Poi si scoprì che in realtà il valore aggiunto era l'Ulivo. Nel centrodestra sono nella fase pre-Ulivo. Io diciamo auguro, che ancora non si sa. Auguro ad Alfano di costruire un grande partito liberale di cui questo paese ha bisogno. Senta, Renzi ha chiesto le dimissioni del ministro Cancellieri che non era e non è indagata per opportunità. Per il sindaco De Luca, invece, suo grande elettore, che è inquisito, dice no, bisogna aspettare fino alla sentenza. Due pesi, due misure addirittura. Penso avesse torto con la Cancellieri. E io non appartengo alla scuola di pensiero dei giustizialisti in servizio permanente e non può essere la magistratura a decidere. Beh, insomma c'è un'opportunità qua in questa posizione, cioè opportunistica da una parte e poi difficile da capire l'altra. Penso che Renzi sulla Cancellieri... Insomma si è sbagliato. Sulla Cancellieri si è sbagliato, io ho anche preso posizione su questo. E se poi chiedi a me quello che farei io, ma questa è una condizione personale, io se avessi... Se ci fosse un minimo dubbio su di me, mollerei l'incarico istituzionale perché non trascinerei mai l'istituzione che rappresento in vicende complesse. Ma non è giusto, a mio avviso, chiedere le dimissioni di una persona che è sottoposta ad una valutazione della magistratura. Senta, torniamo ai fatti concreti. Lei è favorevole al salario minimo per tutti oppure no? Sono sempre stato, se però senza ipocrisia non diventa un'assistenza permanente, nel senso che sono contro la cassa integrazione in deroga, ecco. È una vergogna nazionale. E quindi sì comunque al salario minimo. No, sono per tagliare il cordone ombelicale tra le imprese e i lavoratori, dare un salario minimo a tempo determinato e poi uno Stato serio si mette nella condizione di trovare il posto di lavoro per le persone che lavorano per aziende morte, che non esistono più. Senta, in Italia invece continuano ad andare avanti per anni e anni. Vabbè, anni. Certo, c'è questo equivoco e questa ipocrisia. Senta, il tetto massimo degli stipendi di manager è favorevole o no? Sì, e con alcune deroghe inevitabili, nel senso che è difficile trovare bravi manager in aziende vabbè, multinazionali. Vabbè, i banchieri guadagnano troppo o no? Guadagnano tanto. Ecco, senta, ma è vero che il ministro dell'agricoltura, cioè sua moglie, ha contestato per prima i tagli di Cottarelli al suo ministero, parlando di tagli? Non mi risulta. L'ho letto. Mi pare che abbia contestato quel giorno i tagli connessi all'IMU, nel senso che li avevano non al suo ministero. Cottarelli penso che lo abbia sostenuto. Quindi nessun problema a casa. Di solito diciamo. Non rispondo per lei. No, vabbè, ma dico a casa, nessun problema? Per Cottarelli no, penso no. Per la spesa sì. Ah, per la spesa sì. Senta, il segretario Catrigalà qui ha detto che tagliare l'IMU sulla prima casa è sia di destra che di sinistra. Lei è d'accordo? Sì, diciamo, detta come la dicono alcuni, è propaganda pura, nel senso che se la prima casa è un attico in una certa zona di una certa città, secondo me è una sciocchezza. Le super case, naturalmente. No, ma non sono solo super case. Ah, fino a dove? Ma io penso che fino alla soglia dei cosiddetti 1.000 euro, poi oltre francamente è inutile chiedere alla gente di non pagare se può pagare. Senta, ma i soldi per l'IMU verranno di nuovo da altre tasse, la benzina sì, no, entra esce, poi le sigarette, si capisce? No, quello è un metodo che io contesto ed è un metodo di chi non vive il mondo reale. Senta, chi... comunque, onorevole Boccia, si capisce francamente poco con tutte queste sigle di queste tasse. Senta qui. L'anno prossimo non si pagherà più l'IMU e nemmeno la TARES, che doveva sostituire la TARSU. Ci sarà una nuova tassa che non si chiamerà TASER, come la pistola che dà l'elettroshock, ma TRISE. Il fatto è che la TRISE, come un missile a tre stadi, contiene altre due tasse, la TARI e la TASI. Se abitate nella vostra casa, pagate tutta la TRISE, dunque sia la TARI che la TASI. Se siete un inquilino, pagate solo la TARI, ma anche una quota della TASI. Se siete il padrone di casa, pagate la TASI, ma non la TARI. Più IMU, si capisce. Ma l'IMU, raddoppiata, la pagate anche se siete in affitto su quell'appartamento dove abita vostra madre, che però pagherà la TASI, lasciando a voi la TASI che avete evitato sulla casa dove pagavate la TARSU. E invece ora, scampata la TARES e aggirata la TASER, pagate solo la TARI, ma non l'IMU. Adesso ripetete. Siamo capaci di ripetere? Sì, sotto la panca la capra. Sì, beh, però stiamo là, adesso abbiamo anche la IUC. Spero ci sia solo la IUC, nel senso che tutta quella roba che avete sentito deve essere cancellata. Ci vuole un'imposta unica, è una mia vecchia battaglia sulla council tax. Non capisco perché nei paesi in cui queste cose funzionano non diventano il nostro modello di riferimento. Diciamo che tutte queste non ci saranno più, sarà solo IUC. Questa è una notizia. Il presidente dei commercianti invece dice che parlare di crescita nel 2014 è mentire sapendo di mentire, è vero? Mente lui perché la crescita ci sarà e... Di quanto? Io penso all'1%. Senta, dice anche che ci saranno reazioni sociali violente. Lei ne ha paura? No, e se dovessero esserci sarebbe il fallimento di un'intera classe dirigente del paese, comprese le imprese e compreso il mondo del lavoro. Senta, loro. Ma lei pensa che la manifestazione indetta da Berlusconi per il giorno della sua decadenza sia un rischio per l'ordine pubblico? No, non penso. No. Senta, è chiaro a tutti che oggi comunque il problema è l'Europa. L'Europa guida tedesca che fa solo i suoi interessi ed è dimostrato anche da una recentissima inchiesta del Messaggero. Fino a quando lo permetterete? Quando è che cadrà questo velo? Io penso cadrà con il semestre di presidenza italiana. L'Italia arriverà lì forte e con un progetto chiaro per gli Stati Uniti d'Europa. Ecco, però fino adesso... L'Italia non ci ha guadagnato niente e ci ha perso molto a entrare nell'euro che è diventato sostanzialmente marco. Senta un po' cosa dice il professor Guarino che se ne intende. Lei dice che con la creazione dell'euro c'è stato un colpo di Stato. In parole semplici, mi dice perché? Molto facile, sì. Individuarlo. Se uno lo chiarisce è molto facile, sì. Perché la disciplina elaborata da Pearl, da Delors e da Carli sì. Ed approvata da tutti gli stati con le procedure di approvazione dei trattati era fondato su due poteri, perché tu non puoi dire la crescita, devi conferire i poteri per realizzare la crescita. Naturale. E questi poteri erano esattamente individuati, erano, ciascuno Stato poteva elaborare, doveva elaborare la propria politica economica in funzione della crescita, nell'elaborare la politica economica in funzione della crescita avrebbe potuto indebitarsi. E allora, invece, professor... questi due poteri sono stati eliminati. Sono stati esautorati. È una cosa importante, che sono stati sostituiti da due doveri. Certo. Il primo dovere è di realizzare il pareggio del bilancio a medio tempo. Il secondo dovere di realizzare il pareggio di bilancio a medio tempo seguendo un programma prestabilito dalla Commissione. I poteri sono diventati doveri nell'interesse della Germania, punto. Se io e lei andiamo a vivere insieme, io porto debiti e lei crediti, lei non mi chiede qualche garanzia in più? Sì, qualche garanzia in più, però non le chiedo di non lavorare più, di non investire no, più. No, non c'è dubbio. Però... Soprattutto se penso che ha delle idee. Non c'è dubbio. E noi abbiamo il dovere di dire ai tedeschi che i debiti saranno comuni e che le prospettive e gli orizzonti saranno anche comuni. E lo fa solo una classe politica credibile. Sì, però, mi chiedo dove erano alcuni Soloni di oggi quando si facevano debiti in nome per conto di chi sarebbe venuto. Soloni di oggi chi sono? Mi dica due nomi. Tutti quelli due che Soloni, fanno gli anti... mi dica due nomi. Tutti quelli Soloni che hanno fatto gli anti-europeisti, ma ce ne sono tanti. Dica due soli. Due? Me ne dica. Ma guardi, ho rispetto, ma anche il professor Guarino che abbiamo appena sentito. Beh, Guarino è sempre stato contro. Sì, ho capito. Quando si facevano debiti negli anni Ottanta era contro, negli anni 90. Faccio la lista dei... Povero Guarino, responsabile dei mali dell'Italia, mi sembra troppo. No. Senta. Ma prendeva posizione contro quelli che facevano debiti. Senta, il totem del 3% nel rapporto debito-PIL, che impedisce lo sviluppo, sarà sfondato o no? Perché questo è il punto. No. Non sarà sfondato e quindi non si può investire. Non nel 2014, nel senso che sarà rivisto dopo il semestre di presenza italiana, quando ci sarà l'unione bancaria, io mi auguro l'unione fiscale, e quando ci saranno le condizioni per emettere quel debito comune. Insomma, questo semestre sarà il toccasana di tutti i mali, bisogna arrivarci vivi. No, ci dobbiamo giocare la nostra credibilità lì. Dobbiamo arrivare vivi soprattutto prima, perché ho l'impressione che non è sicuro. Senta, ma in Europa il ministro Saccomanni riesce a far valere le ragioni dell'Italia? Perché sembra un ottimo tecnico ma con poco peso politico. No, è un ottimo tecnico che ha bisogno di avere più coraggio. Più coraggio? Saccomanni deve avere più coraggio. Ok. Senta, lei ha proposto la web tax. Che cos'è esattamente? È la tassazione di tutti i flussi finanziari prodotti da beni venduti ed erogati sul nostro territorio con piattaforme tecnologiche internazionali. Ecco, insomma, gli americani, per dirla semplice, dicono che lei è contro Google, è vero? No, io non sono contro Google, sono contro coloro che prendono i nostri soldi, li portano via e non li riportano più e qui. E quindi è una tassa... E non pagano tasse. Ecco, quindi è una tassa per mantenere il gettito erariale prodotto dalla rete in Italia. È una imposta per produrre gettito prodotto qui. Io non capisco perché, se noi vendiamo un bene fisico qui, le tasse le incassiamo. Se lo fanno sui servizi imprese italiane, le tasse le incassiamo. Se lo fanno le imprese multinazionali, le tasse non le incassiamo. Mi sembra assolutamente corretto. Quindi anche una forma di tutela del diritto d'autore, in un certo senso. Certo. Senta, però mi sembra che al Senato questa sua legge sia già ferma, o sbaglio? No, al Senato è stata presentata, abbiamo fatto tipo la lepre, presente la lepre in atletica leggera, così abbiamo visto chi erano i nemici, quali erano le lobby contro, abbiamo fatto abbastanza, anche nascoste, alla Camera abbiamo il quadro chiaro, la ripresenteremo. E chi sono quelli approvare. Più contro? Se glielo dico, voi sanno che lo sappiamo. Glielo dico dopo l'approvazione. Va bene, senta, comunque anche qui... Anche insospettabile. Ecco, anche qui sembra che ci siano, se per dirla in francese, poche palle. No, visto che nel governo Letta un po' si parla di però cose, il prodotto, attributi d'acciaio. Il prodotto c'è, tanto vale metterlo sul tavolo. Il prodotto c'è, cioè l'acciaio sì. Quindi anche bisogna che Letta metta gli attributi sul tavolo, diciamo. Dobbiamo metterle tutti. Lo dica? Dobbiamo metterle tutti. Tutti? Beh, lui è il capo, lui prima di tutti. Sì, dopodiché, siccome questo è un governo che ha bisogno di un Parlamento dietro, se il governo dice una cosa e il Parlamento va in direzione opposta, capisce? Vabbè, che... però se sono d'acciaio resistono. C'è la liquefazione, il Parlamento si trasforma in fonderia. Energia. Vabbè, deve metterle sul tavolo, questo dice Boccia. Siamo d'accordo? Assolutamente sì. Ecco. Ma davvero lei pensa che l'Ilva possa interessare i russi? L'Italia interessa i russi e interessa anche l'acciaio, visto che sono tra i principali consumatori del mondo. Ma ne avete parlato con Putin? Oggi si incontra Putin. Insomma, glielo dite. Io al forum economico italo-russo l'ho detto. Vabbè, ai principali investitori, e ora penso che la notizia arriverà anche a lui. Senta, ma come l'ha raccontata lei fino adesso con un po' di cuneo fiscale, le sembra che questa legge di stabilità sia l'arma letale di Letta per costringere Renzi a sostenerlo? Siamo già arrivati lì, secondo lei? Io penso che Renzi sia consapevole del fatto che se non sostiene Letta torna al passato. Cioè, governare è difficile. Deve capirlo. L'Italia è complicatissima da governare. E quindi, alla fine, nello scontro tra i duellanti, chi vincerà? Entrambi. Entrambi? Vincono insieme se si tengono per mano. Se si sfidano, perdono entrambi. Perché chi dei due vincerà, alla fine da solo andrà. Sì, ma uno dei due deve fare quello che dice l'altro. No, devono fare la stessa cosa per un anno. Poi nel 2015... Vabbè, una pace armata come Prodi Veltroni, va, insomma. Ma no, le storie non si ripetono mai, no, questa è una appunto, storia diversa. Possono peggiorare. È una storia diversa, ma possono anche migliorare. Io il bicchiere lo vedo mezzo pieno. Senta, lei con chi sta nel frattempo? Fa il pontiere, come ho detto nella presentazione? Sostengo Letta e Renzi... E vota Renzi. Per la segreteria, certo. Senta, quindi si può non scegliere ancora fra i due, diciamo, si può cercare di si devono uniti. Scegliere entrambi. Io penso davvero che sia la chiave per insomma, il solo governo insieme, del paese. Io... solo insieme Letta e Renzi possono dare una mano al paese, diciamola così. Io ne sono convinto dal primo momento, anche quando in tanti non solo non ci credevano, mi criticavano anche. Senta, ma il centro-sinistra per vincere deve solo essere il volto buono della destra o anche qualcos'altro? Deve cambiare il paese, deve riformarlo, non deve più difendere i tanti conservatori nel paese, ci sono soprattutto a sinistra. Senta, ma il Wall Street Journal dice che il governo, se dura, è peggio per l'Italia. Ha torto? Marcio. Un'ultima domanda. Lei, a quanto lo dà il governo Letta nel 2015? No, uno, guardi, chi scommette sul governo ci guadagna pochissimo, perché è certo che ci sarà nel 2015. Allegria, come mai questa canzone? Perché c'è sempre bisogno di fermarsi, di ricominciare, di ripartire, di qualcuno che dica: come Picciotto, tutto a posto, tutto a posto. Prima di sapere cosa bolla in pentole, ricordo 800 24 00 24 349 238 6666. Che titolo fareste dell'intervista di Boccia, Mario? Io... Intanto ciao. Buongiorno. Io lo farei così. Cerco un centro di gravità. Sto con Letta, ma anche con Renzi. È affetto da manchismo il nostro amico Boccia. Vedi i danni del terzismo. Invece io mi affido alla letteratura. Invece che nudi alla meta, dopo aver sentito Boccia, nudi al semestre. Nudi al semestre, dai, carino, nudi al semestre. Allora Mario, che cosa bolle in pentola oggi? Allora, siamo al day after la visita di Putin dal Papa. È curioso perché sulla stampa russa c'è una polemica, diciamo, a distanza, tra chi dice che i giornali governativi non hanno messo in evidenza i 50 minuti di ritardo di Putin prima di arrivare in Vaticano e chi invece mette in evidenza il fatto che la visita di Putin è durata, anzi il colloquio è durato 35 minuti contro i 20 di Obama. Quindi Putin più importante del presidente americano. Questa è un'osservazione Putin, interessante. Anche perché Putin porta un valore aggiunto, che è quello della spiritualità ortodossa, tant'è vero che nello scambio di doni il primo a inginocchiarsi, a segnarsi cristianamente è Putin. Il Papa quasi se n'era dimenticato e torna indietro. Difficile che il Papa se lo dimentichi. Le immagini parlano. Difficile. C'era rispetto per l'ospite. Allora andiamo avanti. Andiamo avanti. Pare ci sia un contributo esterno. C'è un contributo. Invece non la pubblicate, ecco, sui giornali. La cena in Cina. C'erano tutti i socialisti con la delegazione, mangiavano, no? A un certo momento Martelli ha fatto una delle figure più terribili. Ha chiamato Craxi e ha detto: ma senti un po', qua c'è un miliardo e sono tutti socialisti. E Craxi ha detto, sì, perché? Ma allora se sono tutti socialisti, a chi rubano? Vabbè, Grillo, questa, insomma. E ci fu. Mica tanto spiritosa. Ma. Però questa serve. Il passato. Il passato serve per raccontare quello che sta succedendo oggi, cioè un'incresciosa vicenda. Cosa è capitato? È capitato che Beppe Grillo ha sconfessato il suo guru, colui che l'ha scoperto, cioè Pippo Baudo. E siccome Pippo Baudo. Perché l'ha sconfessato? Cosa l'ha sconfessato perché. La polemica è nata a seguito di un'ospitata di Baudo a 8:30 da Lilli Gruber, dove ha detto la sua da par suo, essendo Pippo Baudo non solo un conduttore, un presentatore, ma anche un intellettuale, un osservatore e anche un democristiano, tant'è vero che... E cosa ha detto? Ha ricordato questo episodio, ha detto che lui certamente ha pagato un prezzo. E Grillo invece ha accusato Baudo di avere slinguato fatto una slinguata postuma a Bettino Craxi. Ah, non è vero, ha ragione Baudo. Ha ragione Io c'ero, Baudo. Me lo ricordo. Basta, assolutamente. E parola definitiva, te la sei beccata. E appunto, Baudo ha sempre ragione. No, quella volta lì aveva ragione, sempre mi sembra troppo. Sempre un po' tanto. Andiamo avanti con le bolle. Si dice, ci sono un paio di cose romane, sempre tra virgolette romano, bisogna metterlo, molto interessanti, però che sono costume nazionale. Il primo è che ieri giocava la Roma, ha pareggiato col Cagliari, la Juventus è in testa, bisogna dirlo a questo punto, minori. Un respiro profondo. Però la cosa divertente, ripeto, costume nazionale, è che i lavori del Consiglio Comunale che sta discutendo il bilancio, parliamo di quasi 900 milioni di perdite, si sono fermati. Quindi, sai, non è bello. L'altra cosa, sempre in metafora calcistica, è che tu sai che abbiamo dato conto della rissa in Consiglio Comunale l'altro giorno, certo, dove Marino sì. ha preso le botte. C'è chi chiede... Ha preso le botte, sembra che gli hanno dato uno spintone, non lo so. Dice, si simula tutto. Basta guardare comunque. Il video, basta guardare lui, il video. Lui oramai butta fuoco. Guardo i video. C'è la prova della moviola sempre, ogni volta. Infatti c'è qualcuno che chiede la prova TV. Al mio segnale, scatenate l'inferno. Insomma, il gladiatore qua di Roma, non so se Marino ha il physique du rôle, sicuramente però, come previsto da Minoli, l'opera andrà in scena. Dunque, lo sciopero è stato sospeso, siamo tutti felici, si farà la prima di Hernani con il grande maestro Muti. Ma attenzione, grande Muti che è riuscito a risolvere il problema. Vai. Attenzione, attenzione, altro sciopero in vista, arriverà quello dei pizzardoni, cioè dei vigili urbani. Tutti anche a piedi, questa insomma. Non è una novità. Intanto un po' di eccolo. La divina Maria Callas. E con la divina noi entriamo nella cosiddetta fase persiana. Vedo già la fronte di buttafuoco imperlarsi di un po' di bellissimo e gelido sudore, ma tranquilli, è tutto a posto perché l'ex presidente Rafsanjani ha detto che l'accordo completo con l'Iran sul nucleare ci sarà entro un anno. Tutti esultano, tranne Israele, come abbiamo detto. Interessante vedere che cosa sta succedendo sul mercato del petrolio, cioè quasi niente, è poco mosso, buon segno, è tutta una questione di petrolio. Sai cosa pensa di voi il mondo degli affari? Pensa che 100 anni fa qui vivevate nelle tende, nel deserto, tagliandovi la testa tra di voi, e che tra 100 anni sarete di nuovo così. Quindi sì, a nome della mia compagnia accetto i tuoi soldi. Antonio da Latina, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Io volevo ritornare un attimo sul ministro del bilancio. Non è il ministro, è il presidente della commissione. Della commissione del bilancio, scusi. Dica. Perché questi economisti strapagati, sottolineato, questi ministri, non, questi non politici... Non lo so se è strapagato. No, cioè, glielo è pagato dico io quello... che sono tutti strapagati, perché sono tutti sopra i 300.000 euro tutti qua. Non sono sicuro, mi dica. Si fidi, dimenticano una cosa, che oggi commercianti, imprenditori, tutte le persone che lavorano, che producono, non hanno capito queste persone che questa gente è stanca di dover avviare attività, quindi aprire partite IVA. Lei cosa fa? Scusi, sono un piccolo imprenditore. Ah, okay. Sono piccolo in che settore? Nel settore dell'automatico, del gioco automatico. E la domanda? Ah, gioco automatico. Ecco, la esatto. Domanda? Io però dovrei avviare una nuova attività. Sì. Ma sto fermo, non lo faccio, perché so già che tutto quello che io guadagnerò, quasi tutto, i due terzi abbondanti, li dovrò dare a loro per vederli passare davanti a me con le auto blu, per vedere che comunque l'altro giorno sentivo che ci stanno i giudici della Corte sì, Costituzionale. D'accordo, che... la domanda c'è una domanda? Ho la sentito domanda quello è che precisa, pensa. Se sì. Queste persone sì. Che hanno intenzione di dare il buon esempio, quindi di prendere delle retribuzioni ragionevoli oppure no, perché sennò gli italiani non li seguiranno in nulla. Grazie. Una bolla ancora, abbiamo no, l'ultima bolla secondi. americana. Obama ha incassato l'accordo con l'Iran, come dicevamo, ma stamattina sono andato a vedere i sondaggi della Gallup e ho scoperto che il gradimento del presidente è al livello più basso dal 2011, solo il 40%. Allora, professor Simonelli, dove era il canone ieri sera? Ma prima sentiamo dove era il canone per Mario e per Pietrangelo. Mario, dov'era? Per me non c'era, perché ieri ero impegnato, siamo sempre sulla letteratura inglese in questo periodo. William Blake, The Tiger, la tigre, bellissimo. Pietrangelo, tu? Non ho visto nulla come sempre. Nulla. Io ho dei compagni di strada che hanno la televisione, l'hanno spenta, venduta. Però vedo i video sempre su internet. No, non è vero. Tu la leggi guardiamo. Solo su Twitter qualcosa, cioè vedo, massimo. Vedo su internet tutti i video, quindi ho visto la scena del Papa, ho visto quell'altra scena lì, sì. Poi ho visto che vai per sintesi. No, scusi, fai un'idea. Però una nota di consumo, noi non la possiamo guardare nelle ore canoniche, perché a quell'ora stiamo facendo altro, solitamente certo. Lavoriamo, no, così. Chiudiamo i giornali, scriviamo, facciamo cioè. Quindi noi siamo tipici di notte on demand. Ah, la nuova televisione, è professore, così. Qui abbiamo due televisionisti on demand, consumatori speciali. Lei invece dove l'ha visto il canone? Con un po' di difficoltà, ma su segnalazione di un mio giovane laureato che si chiama Giorgio Scorsone, ho trovato su Classica una serie di documentari che durano mezz'ora e che vanno in onda tutti i lunedì sui giovani talenti dell'Accademia della Scala. In preparazione all'evento che sarà la prima della Scala, c'è questa serie che illustra come lavorano, come studiano i giovani talenti. Cioè, i lavori dello spettacolo, insomma. Ieri sera era dedicata al canto. Una giovane cantante parmigiana che seguiva le lezioni e la telecamera la seguiva nel seguire le lezioni di Renato Bruson, nei suoi esordi nel Falstaff di Verdi, non come protagonista, ovviamente, e ci raccontava come si lavora alla Scala. E mi sembra una cosa molto interessante, girato bene, si sente ovviamente della buona musica, ieri sera la musica di Verdi, non è pretenzioso, è molto piano, molto molto sereno, non ci sono quelle rincorse che oggi vanno di moda nei documentari, però si ha modo di gustare e di capire come si lavora alla Scala. Devo dire che questo mi ha consolato, perché sempre in tema di musica, ieri sera io che ho un'anima pop, che ne pensino lì gli amici che credono che io sia un professore soltanto, mi aspettavo qualcosa dallo speciale su Gigi D'Alessio, perché così insomma, la musica è senza domanda essere... come? No, Gigi D'Alessio. Gigi D'Alessio, mi aspettavo uno spettacolo pop e invece era uno spettacolo kitsch. Ho tutto giocato su questo suo relazione, rapporto con la fidanzata, un po' stucchevole, quindi insomma una delusione proprio in questa prospettiva, poteva essere uno spettacolo da canone, no. E invece l'unica consolazione è questo. Insomma, basterà il canone quando lo vede, lei professore, la Rai? Al volo. Non ho sentito. No, un bel programma da canone sulla Rai, non l'ha visto? Un bel programma da canone ieri sera, forse no. Va bene, grazie professore, ci risentiamo. Intervista a PIF. Vai. Allora, l'intervista a Piff non è riuscita a partire. Non è partita. Non è partita, e come suol dirsi, questo è il bello della diretta. Allora. Però sta partendo invece Berlusconi, che ha parlato anche stamattina, ha detto che lui ovviamente è contro la decadenza e che fa l'appello per il voto utile. Siamo già in campagna elettorale. La mafia uccide solo d'estate. È il titolo del film di Piff, il tuo film, che uscirà nelle sale il 29 novembre. Ecco, in breve, qual è la storia di questo film? Ma in realtà ho tentato di raccontare la Palermo degli anni 70, 80 e 90, la Palermo che in piena guerra di mafia viveva però come se nulla fosse, guardando l'altra parte, creandosi degli alibi, dicendo a se stessa che la mafia non è pericolosa. Non è che negava la mafia, negava la pericolosità della mafia. Certo, c'era una connivenza quasi naturale in qualche modo. Sì, che in qualche modo ci ha portato, cioè noi bambini, tempi bambini, perché è la storia di un bambino, no? Cresciuto a Palermo. Sì. È un bambino che però nasce sempre in mezzo alla mafia, nel senso che nasce, viene concepito in Viale Lazio nel dicembre del 69, e sotto veniva la strage di Viale Lazio, una strage famosa di mafia, e viene battezzato il giorno in cui Cincian Cimino diventa sindaco, e poi si innamora di una bambina, ma non ha paura di dichiararsi, perché ogni volta che sente un omicidio c'è sempre un palermitano che dice non è stata la mafia, ma è questione di femmine. Senti, ma questo film nel suo insieme è una commedia per raccontare queste tragedie, insomma, attraverso gli occhi del bambino, in qualche modo una provocazione contro la mafia? Beh sì, perché poi la cosa che a me piaceva era che i bambini per natura loro hanno questi un tempo comico meraviglioso, involontario, e poi sono ingenui, sono puri, quindi è il nostro specchio, quindi il bambino si innamora per esempio di Andreotti e ripete tutto quello che dice Andreotti, che io ho preso dai giornali, cose che dice veramente, non ho inventato nulla, e quindi è un modo per far capire quanto era tutto chiaro. Senti, ma come mai nel tuo film Arturo non si è lasciato sedurre dalla mafia malgrado questo contesto? Ma in realtà c'è un personaggio, che è un giornalista che abita nell'appartamento del nonno, che un po' lo salva, gli dice come sono andate le cose, è un giornalista che io, per me, rappresenta quella generazione di giornalisti che tendenzialmente alla fine venivano cacciati dal giornale principale e finivano tutti al giornale L'Ora o qualsiasi, che invece la mafia sappiamo benissimo, la conoscevano, la raccontavano. Poi in realtà c'è da dire che per esempio anche Mario Francese del giornale di Sicilia, quindi sarebbe anche ingiusto, però c'erano pochi i giornalisti obiettivi. No, Mario Francese è un vero eroe, insomma, in qualche modo. È uno che capì prima di tutti, forse anche prima della polizia e della magistratura, che cosa le intenzioni di Salvatore Riina. Però erano quei giornalisti che non solo raccontavano le cronache, ma involontariamente facevano della vera e propria antimafia. Quindi nel film è un giornalista che racchiude quella generazione là, quella interpretata da Claudio Gioeli, che proprio gli racconta come sono andate le cose. E poi lui in realtà, il bambino, continua per un... Vabbè, non voglio raccontarlo. Va bene, allora il film lo vedremo. La mafia uccide solo d'estate, 28 novembre in tutte le sale. Grazie, auguri. Dopo il giornale radio, la storia curata da Marina Milone, la seconda puntata della crisi degli ostaggi, dello scontro fra gli Stati Uniti e l'Iran.